English Bit di Giulia Crivelli. Bail-in. Bank turmoil. Are Europe's new bail-in rules to blame? Il Financial Times ha dedicato numerosi articoli di approfondimento alla situazione delle banche europee. Uno di questi, illustrato da una foto del nostro Prime Minister Matteo Renzi, pochi giorni fa era intitolato «La confusione del sistema bancario. La colpa è delle nuove regole europee sul bail-in?». Il termine bail-in, usato senza problemi sia dal governo sia dai media italiani, è stato contestato dall'Accademia della Crusca, che auspica un minor ricorso, quando possibile, all'inglese e suggerisce salvataggio dall'interno. La curiosità è che anche in inglese bail-in è di fatto un neologismo e a maggior ragione, a patto che non se ne voglia fare solo una questione di numero di lettere, si potrebbe usare l'italiano. Ma vediamo invece un fratello di bail-in, bail-out, usato soprattutto come verbo e che significa scappare da una situazione spiacevole. I would understand if you wanted to bail out of this relationship. Ti capirei se mi dicessi di voler uscire da questa relazione. E sempre parlando di vie di fuga, si può anche dire he had to stop rowing to bail water out of the boat. Dovete smettere di remare per buttare acqua fuori dalla barca. Sempre in tema acquatico, the boat will sink unless we bail out. La barca affonderà se non saltiamo giù. In senso figurato, e per tornare a temi economici e finanziari, si potrebbe dire the government had to bail the company out of financial difficulty. Lo Stato dovette salvare l'azienda dalle sue difficoltà finanziarie. Attenzione al false friend government, che nella maggior parte dei casi va tradotto, sia che si parli di Stati Uniti, sia che si parli di Regno Unito, con Stato e non governo. Per alleggerire, vediamo infine un'espressione calcistica. Ronaldo's late goal bailed out his team. Il gol all'ultimo momento di Ronaldo salvò la sua squadra. Senza preposizioni e come nome, bail significa in realtà soprattutto cauzione. She was released on a 200 pounds bail. Fu rilasciata dietro pagamento di una cauzione da 200 sterline. Can anyone put up bail for you? C'è qualcuno disposto a pagare la cauzione per te? O ancora, the judge granted or refused bail. Il giudice concesse o rifiutò la cauzione. Possibile anche l'uso della forma verbale to bail. He was bailed to appear in court, che in italiano maccheronico potremmo tradurre con fu cauzionato per presentarsi in aula, ovvero gli fu concessa la cauzione con la specifica richiesta di presentarsi in aula.